less and less. It's good to see that you've become obsessed. Chief, con i quali abbiamo iniziato oggi. Allora, un buon pomeriggio a tutti da DJ Edo Rossi, 2 ore per stare insieme. Torniamo alla versione più normale del nostro programma, 2 ore per stare insieme, dico il nostro programma ovviamente perché insomma trattasi del mio più il vostro, all'interno del quale come al solito parliamo di tante cose. Stavo controllando che partisse correttamente Joe Jackson. Vi ricordo i contatti: 335-100-7777, la linea SMS, e l'email edo@rockfamily.it. They drove for miles and miles and most it went on and on. Then came that morning he woke up alone. He spent all night staring down at the lights of LA, wondering if he could ever go home. We'll be right back. Abbiamo finito anche qua con la Rolls Royce. Grandissimi Aerosmith riascoltati con Dream On, siete su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi. Vi ricordo che potete continuare a scrivere per dare il vita all'interazione, più tardi verrò a rispondere ai vostri messaggi, potete scrivere cosa accidenti vi pare, insomma un po' di interazione come se fossimo al bar del rock and roll, non solo al rock and roll, ma in questo caso al bancone del bar del rock and roll. Quindi 335-100-7777 il numero SMS, oppure edo@rockfamily.it. Mamma mia, che voce alcolica. Altro mi viene in mente una parte del film The Future Is Unwritten, quello che è stato fatto da Julian Temple sulla vita di Joe Strummer, dove c'è proprio una dichiarazione dello stesso cantante dei Clash che dice: a un certo punto della mia vita avevo deciso di smettere con l'alcol, poi ho ricevuto una telefonata da parte del cantante dei Pogues che voleva che andassi in tournée con loro. The shadows.